Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Le hostess, graziose e in costume orientale, cominciarono a gridare e a correre su e giù nel corridoio agitatissime. L'aereo toccò violentemente terra e cominciò a strisciare velocemente ondeggiando come in un gigante toboga, finché si spezzò in tre tronconi. Sono Giampaolo, vivo a Cadone, che è vicino a Padova, ho 59 anni, sono sposato con due figli, purtroppo sono già in pensione, sono uno degli esodati. Giugno 1981. La giornata era stata calda e piena di luce. Navigavamo con la Spiga, un barchino a vela di 8 metri e mezzo costruita nei cantieri di Rimini, a circa 4 miglia dalla costa spagnola. Eravamo diretti a Gibilterra, a dritta cominciavamo a vedere le luci di Malaga. Intorno alle 21.30 cominciavamo a prepararci per il turno di notte, che quasi sempre iniziavo io, quando il capitano risale dalla cabina e mi dice: «Hai visto il barometro?» Gli rispondo di no. «Vai a dargli un'occhiata», mi dice. Scendo in cabina e guardo. La pressione è scesa quasi ad indicare l'arrivo di un tifone. Il cielo era sereno, non c'era ombra di vento. Intorno alle 23 eravamo soli nel pozzetto con le cerate e il vento che arrivava a fine scala. Davanti a noi cominciavamo a vedere onde che sembravano scivoli alti 15 metri. Il capitano mi dice di sigillare tutto e imbragarci con i moschettoni. Poco dopo, intorno alla mezzanotte, un peschereccio ci fa segnali per capire se avevamo bisogno di assistenza. Nel frattempo avevano già calato delle reti nel caso avessimo deciso di abbandonare la barca e andare a nuoto. Giovani e temerari, rifiutiamo e andiamo avanti. Le luci a dritta non si spostavano di un grado, in pratica eravamo fermi, nonostante avessimo una randa e una vela di trinchetto e il motore acceso. Niente di niente, l'angolo delle luci non cambiava, quindi eravamo fermi. All'1:30, nel mezzo di una tempesta impossibile, il vento segnalava oltre 60 nodi, 120 km all'ora. Le onde continuavano a guardarci come un toro il torero. La barca sembrava ferma e noi decidiamo di invertire la rotta. Torniamo indietro verso un porto che distava 6 ore di navigazione. Mai cosa fu meno opportuna. Consigliai a Mario di invertire ancora la rotta. Almeno le onde le potevamo guardare in faccia invece che sentirle arrivare alle spalle. Le 16:09 minuti, buongiorno, un giovedì 17 di ottobre 2013, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui e oggi raccontiamo, guarda un po', delle storie. Ne raccontiamo una in particolar modo, che è la storia di Giampaolo. La prima che vi ho raccontato, questa è arrivata poco tempo fa sul profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui Radio 24, e l'ha scritta Fioravante. Nome vero è Fioravante Scognamiglio. Guarda, lo leggo tutto perché è bellissimo, non capisco qual è il nome e qual è il cognome. Perché oggi parliamo di sopravvissuti, parliamo di persone che sono sopravvissute anche in metafora, eh? Non deve essere per forza una tempesta come per Fioravante, o tenetevi forte, un incidente aereo come Giampaolo. Se siete sopravvissute a delle storie, a delle relazioni, a degli episodi, 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, altrimenti Twitter e Facebook, siamo praticamente dappertutto. Ad esempio Alberico scrive: sopravvissuto a una sfilza di donne che oggi a 40 anni reputo mi avrebbero creato qualche problemino. Trovare moglie a 35 anni può avere i suoi vantaggi. Oh, ci aggiorniamo tra una decina d'anni, eh? 349-238-6666, Ferruccio: arrampicavo sulla via Rossi al Piz, Chavasez. Vabbè, ne ho detto una serie di robe che non so cosa vogliono dire. Sbaglio uscita e mi ritrovo che sembra d'autostrada. Ah, devo tornare indietro. Invece sbaglio uscita dell'arrampicata, immagino, giusto, Tiz? E mi ritrovo a cavallo di un masso delle dimensioni di una 500 che si stacca con me sopra. Brivido e volo di 15 metri, ma manco un graffio, anche se chi mi faceva sicura era bianco come un cencio. E Ferruccio aggiunge anche un ha ha ha ha. Ci sono poche cose che mi innervosiscono come gli ha ha ha sui messaggi o su Facebook, eccetto Ferruccio, che qui è un grande sopravvissuto ad un masso grande quanto la 500, però ha ha ha. Grazie, 349-238-6666. Se siete impressionabili, facciamo un disannuncio, un'avvertenza, un warning. Se siete sensibili a incidenti aerei, se avete paura di volare, se state per prendere un aereo di qui a qualche giorno, forse è il caso che non ascoltiate il racconto di Giampaolo, o altrimenti ve lo ascoltate in podcast quando il volo è finito, quando avete fatto il corso contro la paura degli aerei, perché capita. Certo, diciamo, a discolpa della compagnia aerea e del pilota, può essere che questo racconto risale al 1984, quindi 20 anni fa. Quindi la tecnologia aeronautica è incredibilmente avanzata, anche se era un DC-9. Ci sono compagnie che volano ancora con i DC-9 o i DC-10. Tiziano ricorda sempre che ci sono più probabilità a fare un incidente in auto che non in aeroplano. Tant'è, allacciatevi le cinture, questa è la storia di Giampaolo. Avevamo deciso di passare le vacanze di Natale del 1984 in Indonesia, attraversando Sumatra, l'isola di Giava e il Borneo. Per il Capodanno avevamo previsto giusto una tappa riposante a Bali, molto attrezzata turisticamente. Il volo interno della compagnia nazionale Garuda ci portava in poco più di un'ora da Yogyakarta a Denpasar con un comunissimo DC-9. La giornata era limpida e soleggiata. La coda dell'aereo era vuota, con due file libere davanti allo steward, e decidemmo, mia moglie ed io, di trasferirci in fondo per godere il panorama delle isole dal finestrino. A un certo punto ebbi la sensazione che l'aereo stesse puntando deciso verso la superficie del mare. La sensazione si tramutò in certezza quando cominciarono a suonare e ad accendersi tutte le luci dell'allarme. Troppe per essere i soliti richiami ad allacciarsi le cinture per l'atterraggio. L'aereo puntava decisamente il muso verso terra. Mi attaccai forte con le mani allo schienale davanti a me e mi raccolsi in posizione fetale. Non ci sono paracaduti nei voli passeggeri. Le ribaltine sopra i posti a sedere, quelle del bagaglio a mano, si spalancarono una ad una, facendo cadere tutto il contenuto. La cosa che ti viene subito al senso di impotenza. Non puoi fare nulla. Ti attacchi allo schienale, a qualche cosa, ma non puoi scappare, non c'hai un paracadute, non puoi fare nulla. Le hostess, graziose e in costume orientale, cominciarono a gridare e a correre su e giù nel corridoio. L'aereo toccò violentemente terra e cominciò a strisciare velocemente, ondeggiando come in un gigante toboga, finché si spezzò in tre tronconi. Entrò una forte luce e la coda si spezzò proprio sullo schienale a cui io ero attaccato. Il suo sedile fu divelto e la fila a fianco fu strappata via come una scatola di latta. Restarono intatti solo il mio posto, quello dietro a me, quello di mia moglie e quello dietro ancora, dello steward. Il troncone scivolava via perché era finito in una palude oltre la pista d'atterraggio. Rapidamente sorpassammo la parte centrale con le ali che stavano bruciando e la punta. Spruzzi nerastri entravano da davanti a me e mi riempivano il viso. Nei lunghi secondi che passarono pensavo che fosse carburante che si sarebbe prima o poi incendiato usandomi come una torcia. Capii invece poi che era fango e l'essere finiti nella palude aveva impedito che la coda con i motori si incendiassero subito. Intorno a me vedevo con la coda dell'occhio delle gigantesche palme. Aspettavo di schiantarmici contro da un momento all'altro, non finiva mai, il colpo finale non arrivava. Il nostro moncone invece finì di planare nell'acquitrino e si fermò. Chiamai mia moglie e, ricevuto l'ok, gridai di saltare giù. Mysterious shade that took it far. Oh, what it was. Incarnation. Three stars. Delivering signs and dusting from their eyes. Ricordo che indugiai un attimo dove sarei finito. Ma non c'era scelta. Saltai finendo nel fango fino a metà gamba. Persi le scarpe per muovere i primi passi. Dopo di me si lanciarono mia moglie e lo steward, il quale mi richiamò perché aveva visto un passeggero che era caduto dal nostro pezzo ed era finito esanime sotto l'aereo. Non eravamo soli, quindi. Non l'avevo notato, ma lo trovammo presto perché mi pareva enorme o forse era solo appesantito dal fango. Non riuscivamo a trascinarlo, ma in quel momento arrivarono i soccorsi e i vigili del fuoco con le loro tute ignifughe. Ci trascinarono via dal nostro pezzo d'aereo ormai in fiamme. Ebbi ancora l'ardire di arrampicarmi e recuperare la mia borsa fotografica con tutti i documenti che avevo portato e tenuto tra i piedi, pronto a fotografare le isole al tramonto. A questo punto mi alzarono a forza fino alla diga in cemento, quella poco lontana, contro la quale era andato a sbattere l'aereo con le ali, spezzandosi. Eravamo ricoperti di fango, ma senza un graffio. I pochi passeggeri italiani furono tutti salvi e quelli non bisognosi di ricovero ospitati dal console italiano in attesa del rimpatrio. Il viaggio era finito. Siamo stati tutti radunati prima sulla diga e poi all'aeroporto e poi accompagnati al consolato perché eravamo stranieri, diciamo. Le più malconce tra noi, due torinesi, madre e figlia, ricoverate con la spalla trafitta da pezzi di lamiera, si erano spostate nei nostri posti rimasti liberi, proprio tra le ali, per chiacchierare con gli altri italiani. Le andai a trovare dopo alcuni mesi e si consideravano fortunate perché le lamiere erano passate a pochi centimetri dal cuore. Con una moto a noleggio, in quei giorni girai per l'isola, la consiglio per le stradine strette e la guida sinistra, nella vana ricerca di giornali in caratteri latini e lingua inglese, tutti esauriti in quei giorni. Ricordo che la gente del posto ci toccava come miracolati. La colpa poi fu attribuita ad un errore nella manovra di atterraggio del secondo pilota, lasciato imprudentemente a pilotare per fare addestramento, considerate le condizioni ottimali. L'intervento all'ultimissimo istante del comandante consentì solo di non atterrare di punta, ma di spanciarci a forte velocità. Tutti all'aeroporto avevano intuito l'imminente schianto e i soccorsi erano già allertati. I piloti uscirono indenni e ci sono le foto in cui, camminando sulla diga, si strappano le mostrine dalle spalle, per vergogna o per non farsi riconoscere, forse. In Italia la notizia fu data in qualche notiziario della notte, ma non c'erano vittime italiane e il tutto passò in sordina. Questo fu un bene per i nostri parenti. Alcuni italiani avevano perso tutto, vestiti e attrezzature. Così rientrarono in ciabattine e camicette fiorite comprate a Bali. Affrontammo il rimpatrio nel mitico gennaio ghiacciato dell'85 con un viaggio non meno avventuroso, ma questa è un'altra storia. Sembra un pilota d'aereo Giampaolo nella foto che ci ha mandato. Non so perché, ma è vestito come un pilota. Ha una camicia azzurra e una cravatta blu. È abbronzatissimo. Immagino che non sia a Bali in quei giorni, perché ha la faccia molto riposata e molto tranquilla. La barba di un paio di giorni, alle sue spalle una piscina. È comunque in vacanza. Pronto Giampaolo? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, molto bene. Dove sei in questa foto che ci hai mandato? Sei in vacanza? Ah, lì devo essere in Tunisia, in un viaggio che poi ho fatto perché dovevamo esercitare un po' dopo. E infatti, perché effettivamente una delle prime domande è: a quel punto uno con che cuore riprende un aereo? Infatti, allora, i primi anni, come tu avrai letto poi dalle altre storie, sì, non mi sono rifiutato di prendere l'aereo proprio perché non ce la facevo, avrei dovuto andarci anche per lavoro, ma era proprio una cosa più forte di me di prendere di nuovo l'aereo. Poi abbiamo cercato di farlo lo stesso perché abbiamo detto un po' bisognava e un po' anche volevamo proprio toglierci via, esercitare. Certo, insomma, risalire sul cavallo dopo la caduta. Sì. Tra l'altro, per la legge dei grandi numeri, tu in realtà, tu e tua moglie siete a posto ormai, nel senso che un incidente aereo ti capita una volta, e poi, anche se poi giustamente mi raccontavi che il viaggio di rientro con il ghiaccio, insomma, non è stato così liscio, e questa però è proprio un'altra storia che ci ha raccontato. Io vorrei rimanere qua invece proprio perché non mi capita tutti i giorni di parlare con una persona che è sopravvissuta. A parte che Margherita mi scrive delle statistiche: un incidente con almeno una vittima avviene ogni 2 milioni di voli, il 24% dei passeggeri sopravvive in media agli incidenti aerei. Tu quanti anni avevi? Eravate in quale viaggio particolare? Allora, avevo 30 anni e era questo viaggio di vacanza, in questo caso, erano quei viaggi che a quei tempi, non so se ci sono ancora, erano mezzo organizzati e mezzo autonomi, e mezzo no. Si avventure nel mondo, così, per cui doveva essere la prima parte in qualche modo organizzata, perché anche per attraversare Sumatra, che stato molto bello vedere, era abbastanza primitivo ancora quel tempo, e poi invece volevo fare il Borneo invece per conto mio, tanto per dire, sì, cosa, però giustamente a Bali c'era le spiagge e così via, facciamo Capodanno a Bali, insomma, no? Ecco, certo, insomma, è un'idea che verrebbe in mente anche a me, sinceramente, cosa facciamo a Capodanno? Andiamo a Bali, e ci siete arrivati a Bali, solo un po' in fretta, insomma, ci avete messo meno di quanto fosse previsto. Mi dici quanto è durata, se riesci a ricordarti, la caduta, cioè da quando hai detto ops, mi sa che stiamo puntando verso terra, a quando avete sbattuto a terra, cioè due questa, minuti, dieci minuti. È una cosa che sembra lunghissima, infatti è qualcosa che sembra lunghissimo, no? Voglio dire, anche perché mai capisci che stai, che la cosa era chiaramente fuori controllo, certo. E quindi è una cosa che non finisce mai, dura, sembra un'eternità. Adesso quando tu hai riletto la storia, in effetti l'ho rivissuta ancora di nuovo, e una prima sensazione dice, ma non finisce mai, c'è il colpo finale adesso, no? Perché tocchi e vedi che sbatte di qua, va di là. Aspetti il momento, no? E che non arrivava in quella circostanza, non è arrivato, per fortuna. Ma ad esempio, scusami, perdonami in particolare macabri, c'è Tiziano che sta sbiancando lentamente, il rumore che si sente, è il rumore dell'aereo, c'è qualcuno che urla, c'è... Beh, c'erano tutte le urla, infatti quello che dicevano, lo steward si è comportato, era lì seduto, alla fine era comportato, invece le hostess erano lì che urlavano avanti e indietro, noi eravamo tutti impietriti di fatto, no? Perché non si vedeva che puntava, noi aspettavamo che qualcuno lo rialzasse un po' in qualche modo, no? Certo, perché lo porteranno su. Ma dov'era sto pilota che aveva dato il copilota? Non ho capito. Se n'era andato. Erano i due piloti, poi abbiamo cercato di ricostruire la situazione. Erano due piloti, il pilota più anziano e il copilota. Il copilota in realtà non avrebbe dovuto avere autorizzazione, se non ho capito bene, di fare le manovre di atterraggio. Però lì c'è una questione, pur essendo un aereo della compagnia pubblica, ma mi dà conto. L'Italia è abbastanza fortunata perché i piloti civili fanno un lungo addestramento, spesso e volentieri, prima come piloti militari. Come militari, no? Certo. E poi certo. Arrivano a fare poi e sono preparatissimi. Preparati. Questi invece arrivano con molto meno ore di volo, si chiama. Cioè, aveva la P di principiante l'aereo in coda e nessuno l'aveva vista. Ma questo è orribile. Scusami, Giampaolo, mi è uscita proprio malissimo. Senti, invece, nel momento in cui il pezzo di Moncone in cui eravate voi, tra l'altro. Abbiamo pubblicato le foto che ci hai mandato sul nostro profilo Facebook ed è, per chi l'ha visto, è Lost, proprio è quella cosa lì, cioè pezzi di aereo incendiati, palme, persone con del fango addosso. Quando l'aereo si è fermato, quando hai toccato terra, hai avuto una sensazione particolare, tipo fai in tempo a dire wow, sono vivo, oppure a quel punto è solo azione, solo andarsene? Solo a dire, cioè, si vede che sei fermato e vedi, ci scappo via perché sta per scoppiare, per incendiare. Poi ti arrivano quei pensieri stranissimi, no? Vedi la palude sotto di te e dici oddio, le sabbie mobili, no? Ci vengono queste fantasie, perché vedi anche le canne che spuntano, quindi dici, beh, io muoio, se vado dentro mi infilzo sotto sulle canne, sta, no? A vedere che sono sopravvissuto all'aereo e finisco nelle sabbie mobili come nelle barzellette del deserto, no? L'italiano, tedesco, francese, quanto è profondo questa palude, non capisci, dici, mai vai sotto e ci sono tutte queste canne, allora ti salti perché c'è, ormai dice, insomma, è andato da una parte, adesso troviamo dall'altra, insomma. E salto giù e sono andato giù, insomma, sono andato dentro col fango fino al bacino, poi siamo riusciti a tirarsene fuori, insomma, ecco, così. Questa è una roba che poi ritorna, che, cioè, ovviamente, secondo, no, quello che ci si immagina, che sogni di notte, oppure che ti è venuta in mente per tanto tempo, ti sei sentito diverso dopo che è successo e dici oddio, sono sopravvissuto, sono una persona nuova. Una fortuna eravamo, poi abbiamo fatto solidarietà con gli altri italiani che ci eravamo ritrovati lì, e quindi abbiamo fatto quel viaggio di ritorno lunghissimo, anche una specie di, diventa come una nuova famiglia, così, per un periodo, no? Una compagnia, certo. di per cui vi siete risentiti, vi siete incontrati per un po' di tempo, sì, perché poi abbiamo rifatto un volo tutti insieme per ritrovare al contrario della pizza di classe, la pizza della catastrofe, la pizza del ragazzi, facciamo una bella pizzata dell'incidente, chi c'è, chi non c'è. Una roba del genere. Giampaolo, senti, l'altra cosa è che per tanto tempo poi nei voli mi è rimasto sempre lo stomaco che si stringeva, e dato il momento di atterraggio per molti anni, quasi fino anche adesso direi, ancora il momento di atterraggio ci guardiamo, quando sono con mia moglie e ci guardiamo, abbiamo tutti e due ancora lo stomaco che si stringe. Non sono riuscito mai a vincerlo. Non faccio fatica a immaginarlo. Giampaolo, grazie mille per questa storia di per sé straordinaria, anche per il genere di storie che ci arrivano. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao Giampaolo. Ciao, grazie. Ed eccolo qua, c'è un articolo del Sole 24 Ore, giusto per non essere aziendalisti, che dice: nella statistica della pericolosità dei viaggi, in cui viene utilizzato il parametro delle morti per miliardo di chilometri percorsi, questo parametro non l'avevo mai sentito, secondo Research bla bla bla, a detenere la corona del mezzo di trasporto più pericoloso è la motocicletta, 108 decessi, seguita dai pedoni, 54, la bicicletta, l'auto, il trasporto su acqua, su camion, su treno, su autobus urbano e solo per ultimo l'aereo. Tiziano si rincuora, ma non hai aerei da prendere a breve. No, ma forse la settimana prossima. 349-238-6666. Allora, questa storia di chi compie gli anni oggi in Italia, sentite, io vi ringrazio, no? Ieri era nel mondo e uno mi ha scritto oggi su a voi siete qui @radio24.it che aveva fatto il calcolo, aveva ragione lui, 19 milioni di persone, e oggi Ale da Pegognano che scrive: Matteo, sai che oggi in Italia compiono gli anni 160.000 persone? Va bene, e anche questa l'abbiamo data. Matteo, questa è fibra, niente, ormai solo messaggi fuori controllo arrivano a questo numero, non ha più senso nemmeno fare delle convocazioni e chiedere dei temi o lanciare dei temi. Raccontate storie, scaricate i podcast, voi siete qui @radio24.it per mandarcele un episodio che racconti qualcosa di voi. Se avete voglia di vedere le foto di Giampaolo dell'incidente aereo, se non siete troppo traumatizzabili, andate sul nostro profilo Facebook, voi siete qui R24 Radio 24. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie soprattutto a Giampaolo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un bel punto rosso sulla mappa. Voilà. Sono Luca di Brescia, la storia di domani è la mia e parla di incendio e parenti. Questa è la mia storia e io sono qui.